Buonasera, buonasera. Buonasera, io e Gioia non sentivamo più nulla e neanche voi ci avete già scritto, grandi. Benvenute e benvenuti alla nuova puntata delle Ribelli. Sono le 18:36 di un soleggiato pomeriggio di giovedì, credo, Di di aprile, aprile. se siamo ancora ad aprile. Sì. Io e Gioia e a breve anche Giulia, stasera vi porteremo nel mondo dell'autoerotismo, cercheremo di farlo, diciamo, con anche tanti interventi meravigliosi e interessanti. Ma secondo te, Martina, cosa c'è da dire adesso su due piedi sull'autoerotismo? Mi viene in mente che in questo periodo, insomma, di non contatto esterno con le persone, ne parlavamo anche ieri tra noi, quanto può mancare, quanto siamo predisposti, insomma, ad avere un contatto fisico con le altre persone di solito e quanto ci può mancare in questo momento della nostra vita, in questa situazione particolare, però col nostro corpo dobbiamo avere a che fare, Eh no? sì. Ce lo portiamo dietro tutta la vita. E quanto lo conosciamo? Bella domanda. Quanto ci piace? Boh. Come ci piace? Conoscersi e piacersi è fondamentale. Forse non si dà troppa importanza al proprio corpo, in questo senso, no? Nell'intimo, nel profondo, e non lo si ama abbastanza, però forse Si può fare qualcosa. sì, esatto, soprattutto in questo periodo in cui si è un po' separati da tutti gli altri corpi che Certo. mancano. Boh, a me sì, sinceramente. Molto, molto. Sì. Ma infatti penso anche che, cioè, se la quarantena ha uno dei contro è proprio questo, quindi la lontananza e anche la mancanza degli altri corpi, in qualsiasi modo si voglia leggere questa mancanza, allo stesso tempo si ha anche la possibilità di poter scoprire anche il proprio, visto che bisogna fare i conti con se stessi in questo periodo, è anche magari un'opportunità per scoprirsi e conoscersi. Esatto, e dedicarsi un po' di tempo e cura, direi. Allora, io direi che potremmo ringraziare le DJs, Assolutamente. perché tra l'altro non so se avete notato, ma lo staccato iniziale, Tanta che roba. cos'è? La sigla di Sex and the City. Che Wow. meraviglia. Quindi, un grazie speciale alle DJ e... Vuoi dirlo tu? No, non lo dico io. Lady G, che è qui di fianco a me, anche se si vergogna, Chi è? Chi è? che hanno scelto queste tracce. Non è vero, in E realtà fa tutto le DJ. vabbè, insomma. Grazie, meno male che fai tutto tu le DJ. Questa puntata in realtà ha anche un nome, lo vogliamo dire? Straight Out Certo. of Vagina. Wow. E ce l'ascoltiamo. Shopping carts, vaginas in the art museum, and people buying tickets just Then paparazzi gonna start a riot. Eccoci qui. Allora, direi che questa canzone è esplicativa. Vagina, vagina, vagina. Straight out of vagina. Vagina. Direi che ci è piaciuta molto. Grazie ancora alle DJ. Prima di iniziare vorremmo ricordare a tutti quanti e tutte quante i nostri canali. Allora, vediamo se davvero ho studiato bene. Iniziamo con il canale Facebook, ci potete scrivere alla pagina di Radio ZAM e poi c'è il canale Telegram nel quale potrete ricevere i nostri contenuti e da oggi in fase sperimentale potrete anche scrivere su Telegram, quindi noi vi vedremo i messaggi che ci invierete, quindi anche per darci una mano a capire se effettivamente la cosa funziona, scriveteci e noi leggeremo i vostri commenti qualora fossero particolarmente accattivanti. Esatto, se avete visto le nostre bellissime grafiche, nel punto 5 leggo parola a voi, quindi tocca a voi. Direi che questo canale Telegram è cascato a pennello. Gioie e dolori dell'autoerotismo a casa vostra. Scriveteci un messaggio alla pagina Radio ZM su Facebook, ma anche su Telegram. E Marti, qual è il codice? Cioè il... Come si fa? Ecco. Si cerca su Telegram, chiocciola, radio, ZAM, minuscolo, tutto attaccato, trattino basso, chat. E da lì ci potete scrivere. È in fase sperimentale, quindi... Aiutateci a capire se davvero funziona. Dai. Sarebbe una bomba. E poi leggiamo i vostri messaggini. Esatto, non credete che ci sia un qualche tipo di anonimato. Leggeremo anche nomi, cognomi, codice fiscale. No, esatto. No. Numero di telefono, qualsiasi cosa. Come mettere a proprio agio le persone, Gioia, grazie. Ovviamente no, era una battuta, quindi... Però se avete anche dei consigli, degli esperimenti che avete fatto, provato, ricevuto, non lo so. O se volete dare un consiglio su che cosa magari può piacere, scriveteci. Storie, e racconti. Noi condivideremo. Quindi direi che si può iniziare il programma. Sì. Vagina, vagina, vagina, vagina. E Marti, telefonerai a Maya? Ecco, direi proprio di sì, che Maya ha preparato per noi una cosa molto, molto, molto... utile. Puntini, puntini. Interessante. Buonasera, Radio Slam. Ciao, Maya. Come stai? Ciao. Va bene, bene, bene. Molto, molto felice e eccitata per questa puntata, ragazzi. Eh beh, eccitata direi che è la parola giusta. Sì, penso sia la puntata più eccitante di Radio ZM. Sì, sì. Per certo arriviamo proprio a dei picchi hot stasera, sicuramente. Maya, cosa hai preparato per noi oggi? Allora, io volevo parlare un po', ricollegandomi all'ultima puntata in cui abbiamo parlato di revenge porn, vorrei parlare di sexting. Perfetto. Questo perché? Perché la nostra generazione è stata catapultata, ovviamente, nel web e nei media, e è stata catapultata con tutta l'incoscienza che noi giovani abbiamo. Però nel momento in cui siamo e abitiamo questo spazio, perché non riappropriarcene e perché non farcene proprio? Quindi oggi io voglio parlare di safe sharing, quindi qual è il modo di condivisione più sicuro per le nostre foto nude o se è, e che più ci piacciono. Qui non, in questa sede non abbiamo alcuna intenzione di fare la croce rossa, che per prevenire i casi di sifilide bisognerebbe astinenza. L'astinenza è un modo sicuro al 100% per evitare di essere soggetti a qualsiasi tipologia di abuso. Ma non ma ci piace. Ma anche quello che fa più schifo, esatto. Anche perché, se voi ci pensate, il modo migliore per pulire una casa è dargli fuoco, però ogni volta è un casino, non credete? Quindi, per quanto riguarda safe sharing e i canali di diffusione, si sono sicuramente chat che si autodistruggono, ma non saranno mai sicuri al 100%, perché qualsiasi cosa mandata non è detto che non possa essere copiata e screenshottata. Quindi inizierei, diciamo, da dare una definizione. Che cos'è il sexting? Il sexting nasce, in termini propriamente, nasce dalla fusione delle due parole inglesi, sex e texting, nel senso di messaggio di testo, ed indica la pratica molto diffusa, sia in rete, sia appunto con i cellulari, di scambiarsi messaggi, foto o video piuttosto piccanti ed espliciti. Il sexting, se usato bene, può rappresentare un interessante strumento di seduzione, sia per creare tensione sensuale con una nuova conoscenza, sia per scaldare l'atmosfera con una persona con cui si è già in intimità. Trattandosi di uno strumento potente e delicato al tempo stesso, vanno però fatte una serie di considerazioni, partendo da quelli che sono i maggiori rischi di questa pratica, ovvero il fatto di non conoscere la vera identità dell'altra persona, per esempio in chat o sulla app di dating che stiamo usando, e il rischio che le tue foto, ma anche ciò che scrivi, possono finire nelle mani sbagliate o comunque usate indebitamente. Inoltre, ci tengo a precisare che il sexting di cui sto parlando io riguarda esclusivamente individui maggiorenni e consenzienti. Consenzienti nel senso che entrambi sono d'accordo nel scambiarsi messaggi e quindi non è consenziente mandare una dick pic così a caso, cioè non lo sai se l'altra persona la volesse, questo per essere chiari. È un requisito fondamentale, ovviamente, altrimenti il gioco rischia di trasformarsi in un reato che va dallo stalking alla molestia sessuale alla pedopornografia nel caso in cui siano coinvolte minorenni. Quindi, come prima cosa, bisogna sicuramente assicurarsi di trovarsi nelle condizioni di cui sopra, maggiorenni e consenzienti, basically. Fatte queste dovute premesse, mi sono permessa di scrivere un decalogo per un sexting efficace, consensuale e divertente. Grande. Questo decalogo deriva appunto da anni di esperienze dickensiane e fantozziane che vanno messe a frutto per il bene comune. Allora, inizio con il decalogo. Regola numero uno. Fallo solo con il target giusto. Ragazzi, se non sapete che dall'altra parte c'è una persona che può accettare questa tipologia di seduzione, non lo fate. Il target è fondamentale. 2. Se hai dei dubbi, inizia in modo molto leggero. Non c'è bisogno di mandare subito le proprie foto. Si può tastare il territorio con battutine allusive e così via dicendo. 3. considerate, non tutti si accettano allo stesso modo. Se alcune persone si accettano subito alla vista di una foto sé, altre possono eccitarsi di più quando si riesce a stimolare la sua fantasia, piuttosto che facendo vedere un nudo integrale. Indipendentemente da quanto il soggetto in questione sia figo, figa, palestrato, palestrato, superdotato o superdotata. Non c'entra, bisogna sempre capire la eccitazione dell'altro, come va intesa. 4. Evita di inviare foto e video in cui siete riconoscibili, ragazzi e ragazze e ragazzo. La più facile ed importante regola del sexting è quella di non inquadrarsi mai, mai il viso, che è la parte più facilmente riconoscibile del proprio corpo. Ovviamente questo vale per altri segni particolari, quindi voglie, tatuaggi, piercing, bandane, colori di capelli, evitate, evitate. Tutto quello che potrebbe essere categorizzato in segni particolari del proprio corpo, nella carta d'identità, va buttato. Numero 5. Divertitevi con il reato di travisamento. Per coprire segni particolari col viso, l'idea di fare i pixeloni, quelle cose quadrate, enormi, terribili, non è buona, perché se si può pixellare la faccia, si può anche fare l'operazione opposta. Per questo è apprezzabile l'uso dell'immaginazione, la creatività che ognuno può mettere nel cenare le proprie gioie. Basta mascherine, più maschere in faccia, che siano maschere a gas, antigas, maschere di animali. Esiste un enorme immaginario rispetto alla feticizzazione della personificazione dell'oggetto. Oppure i filtri, raga, i filtri di Instagram sono tipo la cosa più bella e divertente da poter usare. Cioè, a parer mio, una foto con una vagina con i baffi è sempre molto più spassoso e divertente che una triste foto di sé in cui si vede tutto, cioè è così quasi scontato. Quando condividiamo le nostre foto nude con altre persone, infatti, c'è una grandissima parte di gioco e di rilancialità. Quindi il mio consiglio è quello di divertirsi con il reato di tradimento. Camuffatevi, giocate al gioco del porno divo e della porno diva, del ribelle con le gonadi da fuori e divertitevi, ragazzi, divertitevi, immaginazione. 6. Fatelo con chi volete, ma utilizzando solo un'app. Usate meno applicazioni possibili, in particolare se già usate un'applicazione per avere degli incontri sociali con i vostri partner preferiti, potete usare solo quella e ovviamente evitare tutte le altre app che sono iperinflazionate. Visto che il canale Telegram già mi è aperto, io direi a questo punto, se volete dei consigli, mandate in serata per poter aggiustare, mi diranno le DJ se non va bene invece. O non va bene? Ma certo, assolutamente. Va bene. Sotto i consigli di Maya, cioè, seguiamoli. Grande Maya. Anche domande, volendo. Ovviamente, sì, domande, messaggi, foto, scritti, battutine per rompere il ghiaccio. Siate divertenti, ragazzi. Potete usare anche noi come prova, come test. Esatto, esatto. Se ci fa ridere, rideremo e ci sentirete. Esatto, esatto. Punto numero 7 del decalogo. Meglio allusioni e doppi sensi che frasi troppo esplicite e volgari. Ragazzi, siate fantasiosi come quando dovevate inventarvi la giustificazione per la prof che vi doveva interrogare e voi lo sapevate. Cioè, siate fantasiosi anche nel trasmettere la libido. Uguale, cioè la stessa identica immaginazione la dovete usare lì. 8. Scegli il momento giusto della giornata. Tendenzialmente è meglio la sera, quando magari sai già che è a letto ed è più facile creare l'atmosfera, piuttosto che durante il giorno quando sei distratti da mille altre cose. Diciamo che non è proprio facile far recitare una persona che legge il tuo messaggio mentre magari in videoconferenza con lo schermo in condizione, con i suoi colleghi e i suoi colleghi, non credete? 9. Consideralo e vivilo come un gioco, raga. Il sexting è esattamente come il sesso reale, in quello che conta nel sexting non è la performance ma l'esperienza. Impariamola questa cosa una volta per tutte. In ultimo, ma non per importanza, numero 10, per favore, per favore, per favore, non esagerate con i puntini di sospensione. 3 vanno bene, 7 vuol dire encefalogramma piatto. Oh mamma. Top. Con questo finito i miei consigli per un sexting divertente, consenziente e sicuro. Brava. Brava, bellissimo, secondo me molto, bellissimo. Molto, sì. A me ha fatto ridere un sacco. E spero sia piaciuto a tutti. Dateci i vostri commenti e suggestioni anche su questo decalogo, che può anche allargarsi e diventare un ventalogo, o cosa diventerebbe? Ma certo, ma può diventare anche un'enciclopedia, cioè. L'enciclopedia del sexting, sicuro. Esatto. Fantastico. Fico, tu fico. Come l'hai creato? Beh, l'ho pensato? Creato dopo anni di esperienza a fare sexting, dopo anni di appunto di confronti con le mie compagne e i miei compagni, ma anche con le amiche. Cioè, da quando eravamo più piccoline, molto prima che iniziassi il mio percorso politico con appunto il transfemminismo. Cioè, se più volte ci siamo ritrovate a dirci, a parlare, a confrontarsi su ma perché le persone pensano che così gratuitamente si possano mandare foto di se stessi? E dall'altra parte, ma perché io non posso mandare una foto di me stessa che subito mi devono bollare come una poco di buono? E quindi sono stati anni e anni di esperienze. Dall'altra parte poi invece è nato anche per, come posso dire, creare una valida alternativa a quella della vittimizzazione del web, perché come ho detto all'inizio, noi nello spazio virtuale ci siamo nati senza consapevolezza, ma siamo stati catapultati. Quindi ad un certo punto penso sia necessario e fondamentale acquisire una consapevolezza, ma anche crearsi la propria sicurezza negli spazi, che siano fisici ma soprattutto virtuali. Esatto, cioè il punto è non privarsi di qualcosa di divertente e... Mai. Esatto. Sempre ovviamente nel rispetto dell'altra persona o delle altre persone. E di ovviamente. Se stessa. Assolutamente. È la base per qualsiasi cosa. Quindi utilizzando anche questo decalogo e utilizzando delle accortezze, divertiamoci col sexting, non limitiamoci. Spazio alla creatività. Assolutamente. Ma soprattutto spazio al travisamento. Soprattutto, scusa? Spazio al reato di travisamento, ragazzi. Esatto. Cioè, ripeto, la foto con una vagina con i baffi è la cosa più divertente che potete mandare e più spiazzante soprattutto. Sembra Mr. Potato, literally. C'è un messaggio? Gioia? Allora, ci scrivono, scusate, ci ho messo un attimo, ma adesso ce l'ho fatta. E allora, dal nostro canale Telegram è arrivato un messaggio. Il primo, quindi è un'emozione direi eccessiva anche, forse, no, non è mai eccessivo. E il commento di un ascoltatore anonimo, che potrebbe essere anche un'ascoltatrice, volendo, è il seguente. Quanta suspense. Non sono d'accordo con il punto 7. Quindi. Qual è il punto 7, Maya? Il punto 7 è meglio allusioni e doppi sensi che frasi troppo esplicite e volgari. Ok. Come si potrebbe interpretare questo commento di questo ascoltatore o di questa ascoltatrice? Sì, assolutamente. Io non sto dicendo che bisogna usare solo unicamente allusioni e doppi sensi. A tutti può piacere, nel senso non si criminalizza quando si piace la volgarità. Anche a me piace molto il sesso volgare, rudo, crudo. Ma bisogna anche capire che dall'altra parte a non tutti piace, e soprattutto più che altro per allungare il brodo, perché è quello di cui si tratta per fare sexting, perché sennò su tre messaggi ed è finito tutto. Per allungare il brodo risulta più efficace utilizzare allusioni e doppi sensi, anche però... perché poi c'è un che significa, e cosa vuoi che significhi, e si allunga. Certo, direi prima di arrivare alla parte in cui ci si dice qualche porcata, chiamiamola così, poi, o qualche volgarità, magari chiedere se piace, se può andare, e poi decidere insieme. Esatto. Assolutamente. Comunque il nostro ascoltatore o nostra ascoltatrice ci ringrazia, quindi salutiamo. Grazie, vuol dire che il canale Telegram funziona, quindi per favore collaborate tutte e tutti. Come vedete, come anzi avete sentito, siete assolutamente anonimi e anonime e vi vogliamo bene. Ed è fondamentale il vostro contributo. Esattamente. Maya, che dire? Ti ringraziamo per questo decalogo direi molto utile e meraviglioso da stampare, forse anche da appendere. Sì, anzi Maya, se possiamo farti questa richiesta, se ci potessi mandare il decalogo, noi possiamo anche condividerlo dal canale Telegram e dalla pagina Facebook. Assolutamente, perfetto. Certo, te lo posso fare. Allora lo aspettiamo. Va bene. Ok, allora Maya, ti ringraziamo ancora tantissimo. Ci hai fatto ridere un sacco, hai fatto ridere un sacco, scommetto, anche i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. E quindi direi che possiamo andare avanti con il programma. Ti salutiamo calorosissimamente, con tante R, mosce. E io vi abbraccio fortissimo. E quindi ti salutiamo, grazie mille. Grazie Maya, un bacione. Grazie a voi raga. Ciao. Grandi forti, ciao. Ciao. Ciao. Bene, allora direi che per andare avanti possiamo mandare prima una canzone un po' che ascoltiamoci due tracce. Ma sì, tanto due tracce di Lady DJ preferita ce ne ha mandate, quindi potremmo anche ascoltare solo musica, però a noi ci piace parlare, quindi parleremo anche. Va bene, Marti, vuoi avere te l'onore di presentare la prossima canzone? Sì. Diamond Veins. Ascoltiamo. Eccoci qui, allora direi che possiamo mandare un'altra canzoncina. State con noi che a breve avremo anche dei messaggi da ascoltare insieme. che ci sono arrivati, che abbiamo preparato durante la settimana per questa puntata. E non avete idea di quello che andremo a sentire dopo, quindi l'intervento successivo. Però prima, appunto, ascoltiamo ancora una canzone. Marti, vuoi avere tu l'onore di annunciarla? No, vai tu. Annuncio io, ok. Allora, non so il francese, quindi chi parla francese mi perdoni per la mia pronuncia. Je t'aime moi non plus di Jane Birkin. Ok, Qui l'imbarazzo è salito a dei livelli estremi. Ci vuole la sigaretta dopo il sesso, dopo questa canzone. Assolutamente. Direi che potrebbe essere la colonna sonora. Della puntata, questi gemiti e sospiri. Mio Direi Dio. che Lady J ci fa sempre sognare, quindi la ringraziamo ancora di So cuore. exciting. Beh, direi che ci sono parole per continuare. La canzone parla da sé, e quindi è un po' difficile in questo Speriamo di aver momento. portato anche a casa vostra questa atmosfera magica e Perché qui è molto sensuale. magica. La prossima chiamata ci riporta un po' invece al divertimento, probabilmente. Sicuramente. La prima volta che interviene in questa radio, sono molto emozionata. Probabilmente potete anche immaginare di chi si tratta. Vediamo se si spoilerà da sola. La stiamo chiamando. Pronto? Ehi, Buonasera. ciao! Ciao! Allora, presentati, chi sei? Siete due birichine. È giù che metti queste. No, non lo posso dire, insomma. Vabbè, ormai. Un pochino quando stilavo la lista ho pensato, ho detto, chissà la reazione. Dai, dai, mettiamola. Infatti è proprio sortito l'effetto sperato, Hai vedi? fatto benissimo. Quindi stiamo Speriamo che anche a parlando. casa abbiano Esatto. goduto, diciamo. Esatto. Forse l'avrete capito perché sei un po' spoilerata. Stiamo parlando con Lady J, Wow! la nostra DJ di Radio Ribelle. Sono tra due DJ oggi, io mi sento. Wow. Io sono Grazie. arrossita. Gioia è rossa da almeno 5 minuti. Come stai, Jay? Va bene, dai, bene, bene, tutto a posto. Mi sono data un po' da fare oggi per il lavoro, ma diciamo che adesso sto molto meglio, ecco. No, meno male. Adesso relax. Prendiamoci queste 2 ore di sospiri, di sollievo. Relax e godimento, Esatto, esatto. sì. Cosa ci porti? Cosa ci porti? Allora, oggi stasera, oltre a tra l'altro, ecco, volevo dire questa cosa che nessuno l'ha detta, però oggi, visto che ovviamente ho lavorato, avevo bisogno di aiuto per la colonna sonora di questa puntata e quindi non è che l'ho fatta solo io la playlist, ma ho anche chiesto l'aiuto delle mie fantastiche colleghe in radio e del gruppo delle ribelli che mi hanno aiutato, perché non è che ci sono solo le mie canzoni. Sono anche le canzoni vostre. Vabbè, ma mandate da te fanno tutto un altro effetto. Ho capito, vabbè, però cioè, questo è l'aiuto, la solidarietà. No, è vero, dai. Brigata dei ribelli. Brave, facciamo un plauso alle ribelli. E allora vi porto una cosa che secondo me a me fa piacere perché è un tuffo nel passato. Vi porto un pezzo del monologo Sesso, grazie tanto per gradire, di Franca Rame, che è un monologo sull'erotismo e sulla sessualità, che ha scritto nel 94 e poi insomma, l'ha ripreso, l'ha risistemato più volte. È un tuffo nel passato per me perché per 3 anni le ho fatto da assistente personale e quindi un pochino mi è venuta la malinconia, la nostalgia. E spero che leggendolo non mi venga tipo un infarto, perché spero che dall'alto non mi fulmini con le sue: no, bambina, hai sbagliato tutto, hai sbagliato il respiro, hai sbagliato le tonalità, perché già me la immagino come era fatta lei, era così. E ve lo leggo se avete voglia. Certo. Partiamo? Vai, lo Vado? spazio è tuo. Ok, allora, Madonna, che ansia. Parliamo di cose serie, parliamo di sesso. No, non è una boutade, non è una battuta di spirito. Siamo profondamente convinti che in un momento come questo, tanto tragico e squallido, parlare di sesso sia una scelta civile, politica, buttarci sul personale, ritrovare il piacere di vivere, una morale e un'onestà che in molti hanno perduto. E ora andiamo senz'altro a incominciare. Ci sono cose che dispiacciono anche alle fanciulle, ad esempio, oltre alla scarsa delicatezza, le fanciulle rimproverano agli uomini di avere poca fantasia. In particolare per l'uomo, spesso, l'arte amatoria si esaurisce in un ossessivo stantuffare di sgorga lavandino. Di certo, molto piacevole per lui, che ha la sindrome dell'idraulico, ma per noi mica tanto. Attenzione uomini, come dice Iannacci nella sua canzone Ci vuole l'orecchio, è fondamentale. Soltanto se ascoltate e riuscite ad assecondare i desideri della vostra partner, potrete regalarle sensazioni piacevoli. Quindi calmatevi, lei non è un flipper. A questo punto dobbiamo parlare del nocciolo, il tema centrale del nostro spettacolo, che è il rapporto sessuale per eccellenza. La penetrazione, che nessuno sa come si fa. Su questo argomento la disinformazione è totale, che poi uno rischia di andare a vedere un film porno e restare folgorato. Ah, è così che si fa! Poi torna a casa e prova a fare anche lui il martello pneumatico a quella velocità. Guardate, state attente, quando gli piglia la sindrome del porno che rischiate l'autocombustione. Voglio darvi un consiglio, fate un esperimento, pigliatevela comoda, è un piacere, non un esame di dattilografia, e non è nemmeno una gara di una hop. Abbandonate ogni scopo, far bella figura, sedurre, raggiungere il piacere. Cercate soltanto di rilassarvi, sentire l'altra persona, non pensate a nient'altro. Provate a stare fermi così, senza far niente, fermi a contatto. Al massimo potete giocare a respirare allo stesso ritmo, è un'esperienza molto spirituale. Oppure potete soffiarvi sulle orecchie e sul collo, stare abbracciati sotto una doccia e spruzzarvi l'acqua dappertutto, coprirvi l'un l'altra di schiuma, potete mordicchiare la schiena come fosse una torta di lignè o accarezzare i suoi capelli, oppure massaggiarvi reciprocamente i piedi. Ovviamente se volete massaggiarvi i piedi facendo pure l'amore dovete scegliere una posizione adatta, se no rischiate fratture, slogature e infarti. Poi, se siete veramente in sintonia, potete iniziare a danzare. Sì, è come nel valzer, solo che non ci sono passi stabiliti. È una specie di assonanza telepatica, cercando al massimo contatto con tutto il corpo, si cerca di stabilire un ritmo comune corrispondente. Diventa proprio una danza, il tuo corpo si muove da solo, preso da un ritmo misterioso, scandito dai movimenti liquidi e frementi con i quali lei trasforma l'interno del suo sesso in un Luna Park di delirio. Per seguire la danza deve smettere di pensare. Devi entrare in un altro stato di coscienza, devi lasciar perdere le tue angosce e far scorrere le emozioni senza paura. Rieccolo zen. L'orgasmo poi alla fine assume proporzioni bibliche, insomma, roba da pronto intervento della squadra di Niguarda. Chiaro che arrivarci non è semplice. Siamo tutti incartapecoriti dal terrore di scoprirci, di darci, di chiedere, condizionati e disabituati al contatto fisico, all'intimità, alla nudità e al sesso. Intendiamoci, non ho niente contro il sesso per il sesso. Se volete vestirvi con le borchie e fare l'amore gettandovi avvinghiati dentro il toboga dell'acqua plana di Riccione, in 3, in 6, in 28, ma fate pure. Così come potete coltivare qualche hobby particolare, accarezzarvi coi piedi, farlo con la bocca, con il naso, con le ascelle. Però sappiate che a mio avviso non c'è niente come l'amplesso innamorato, etero o omosessuale che sia. L'idilliaco avvilupparsi dei corpi, lo spodestante ondeggiare delle anche, l'ululato di piacere che si sconquassa l'anima. Il nirvana finalmente alla porta dei tuoi occhi, l'audace contatto con la forza travolgente che ti ha creato e ti dà la vita ad ogni istante, questo sì che è grande. Per questo vale la pena di sopportare le estenuanti sofferenti code agli sportelli della vita. Auguri! Per molte ragazze e donne occorrerebbe, col diploma di terza media, consegnare loro un manuale dal titolo Florida, vagina, e dintorni istruzioni per l'uso. Anche a me sarebbe servito quel manuale, ogni tanto la mia mamma, e non so neanche perché, io ero una bambina buonissima, ero una santa, sono ancora una santa, di sinistra ma santa. Mi faceva una di quelle facce che fanno le mamme nei momenti solenni, stai attenta bambina, che gli uomini vogliono solo quella cosa là, e non mi ha mai detto che cos'è. La mia mamma non mi ha mai preparata alla vita, le uniche cose che ho saputo me le ha dette una mia amica, una birichina tremenda, 12 anni, era un po' che non la vedevo, e mi ha detto, sono molto stanca, mi fa un giorno, ma perché sei stanca, cosa hai fatto? Ho fatto l'amore. L'amore? Con chi? Con mio cuginetto, 10 anni, un imbranato, cosa avete fatto? Ma noi non sapevamo niente di quelle cose lì, sapevamo che i bambini nascono dalla pancia, e allora lui col suo coso spingeva. Io ho avuto l'ombelico infiammato non so per quanto tempo. Tra la mia mamma, stai attenta, l'ombelico infiammato, io ero terrorizzata. Guai se un ragazzo mi veniva vicino, gli tiravo i sassi, va via, non l'avrai mai! Che cosa? Ma non lo so, non l'avrei mai. Ma quando sono arrivata al liceo i ragazzi assatanati, impetuosi, mi saltavano addosso, mi abbracciavano e mi spiritolavano. Poi cercavano di baciarmi. Non so voi, ma io ho un ricordo del primo bacio terribile. Lui mi branca, tac, mi sbatte contro il muro, una zuccata da commozione cerebrale. Poi con quelle 24 mani che si trovavano i ragazzi mi voleva toccacciare dappertutto. Poi con la lingua sul collo, poi nell'orecchio. Smettila, mi sembri un frullatore con quella lingua lì. Sono piena di brividi. Mi prende il raffreddore, smettila. Poi a un certo punto non mi vuole mettere la lingua in bocca, a me, che sono vegetariana. Vai via con quella lingua lì che te la stacco, te la do al gatto. Io sempre con le mani sull'ombelico, poi sono cresciuta, mi sono innamorata e ve l'ho detto, sono rimasta incinta, tutta colpa della mia mamma. Sì, perché se mi avesse spiegato le cose, come si resta incinta, invece di tenere le mani qui, all'ombelico, le avrei tenute qui, sulla vagina. A proposito del non sapere le cose, una mia amica, Anna Maria, un giorno viene da me disperata, m'ha piantato, è tutta colpa mia, sono un incapace, non lo so, non lo so. Ma che cosa non sai? Come si fa ad accarezzare il sesso dell'uomo? Alla tua età, beh, hai in mente quando si fa la pasta per i ravioli? Beh, è uguale, senza il mattarello però e senza neanche la rotellina, a meno che non sia un masochista, vabbè. No, non parlo della manipolazione, quello lì, no, non per vantarmi, sono bravissima. Parlo del sesso, del mio sesso, stavamo facendo l'amore. Basta, m'ha gridato, ce l'hai paralizzata, atrofizzata, oddio. Ma sì, non respira, non m'accarezza, non parla, non canta, è muta, cazzo. E via che se n'è andato. Scusa la domanda indiscreta, ma tu, ma a me accarezzare, fa a me, accarezza, respira, la tua canta? Un momento imbarazzata, ho detto, ma se canta io non l'ho mai sentita, informiamoci. E via che l'abbiamo scoperto. Beh, questo lo sapevo già per via di quando partorisci, ma mai avrei immaginato che si potesse, tremendo da dire, applicare nell'amore la ginnastica vaginale, è proprio orribile. A questo punto vi prego un po' di pazienza e comprensione per me, che qui il discorso diventa scientifico e anche un po' difficoltoso. Attenzione, il non utilizzo di questi muscoli porta al loro progressivo indebolirsi ed è causa, non è molto poetico, di menopausa, dell'incontinenza delle urine e che colpisce circa il 50% delle donne. Insomma, vabbè, insomma, la nostra amica, certa Rosalina, una bruna possente, tutta cuore, sesso ed esperienza, ci ha tenuto una lezione. Sicuramente la sua vagina cantava, anzi gorgheggiava, visti gli uomini che sono impazziti per lei. Voi donne, gridava come lei fosse stata un uomo, avete poca dimestichezza con quella zona del vostro corpo. È come fosse una zona abbandonata, cioè avete il diafra tra le cosce e io che ero convinta di averci la vagina, vabbè, insomma, presuntuosa. È per questo che i vostri uomini vi tradiscono. Esercitatela, dovete esercitarla, contrarla, rilassarla, una florida vivace ed educata è come la scala chiocciola del Parnaso. Si contrae, si attorciglia, si distende, scende, sale, la mimica del sesso femminile è molto varia. Mimica? Mi è venuto subito in mente Totò. Sì, avete capito bene, mimica, potete renderla espressiva. Atteggiamento attonito, stupito, ridente, malinconico, assente, oh mio Dio, oscilla, freme. Potete modulare la gestualità come fosse una mano, potete basculare, addirittura aspirare un uomo dentro di voi. Il bello di questa muscolatura è che potete esercitarla ovunque. Potete farlo anche adesso, non vergognatevi, prego. Questa è la liberazione sessuale, forza, infilate il vostro cervello lì dentro. Oddio, che spavento. Respirate profondamente, forza. La mia amica della Florida, atrofizzata, era tutta concentrata. All'improvviso si è messa a urlare. Si muove! Ci riesco, respira! Sento che se vuole parla. Fra poco canterà. E via, che spogliandosi per strada è corsa dal suo uomo. E ora tocca a voi. Non dico di farlo qui, non siamo abbastanza in confidenza, però esercitatevi a casa continuamente, giovani, non giovani. In qualsiasi posto, in metropolitana, dal dentista, lo so, state già provando, ho visto quella signora lì che sta spingendo. Attente però che il maschio si trova spiazzato, non è più lui a condurre la danza. Il suo avanti e indietro diventa una banalità dilettantesca davanti alle vostre possibilità orchestrali da soliste d'arpa. A faccia con la florida prensile, il maschio si può sentire come afferrato nelle spire di una rotonda di 8 metri. Dopo la prima carezza interna che gli elargite, capace che sfugge terrorizzato, ma non fategli prendere un coccolone per lo spavento. Ricordatevi che il 90% degli infarti copulandi sono causati da shock da vagina pneumatica. Un uomo che faccia l'amore con voi, se non vi spaventa troppo, andrà fuori di testa. Wow! Madonna! Madonna, quante risate! È bellissimo, è un brava, testo eh? Meraviglioso, sì. Sì, ma poi tu l'hai letta meravigliosamente. Sì, con altro che sarebbe felicissima. L'avrò sentita 10.000 volte. Ma brava, brava, brava, brava, molto, davvero. Molto. Sì. Direi anche che è un pezzo che si presta tantissimo a questa puntata. Sì, vabbè, ma altri 10.000 di Patrick, perché comunque è lunghissimo questo monologo, durerà 2 ore e questa è solo una piccola parte, ce n'è di ogni, c'è anche per c'è anche per la masturbazione maschile, c'è tutto, qualsiasi cosa. È fantastico, molto bello. Io l'ho conosciuta anche per tutte le età. Sì, al liceo, perché è venuta con Dario a farci una presentazione durante un collettivo anni fa all'Agnesi, dove poi effettivamente abbiamo fatto il murales dedicato a lei. Sì, lo so, ho accompagnato Dario. Quindi noi ci siamo viste, ci siamo intraviste, ma non ci conoscevamo. Che bello! Sì. E vabbè, cioè, mi ha aperto un mondo, devo dire, e voleva tornare, e ero felicissima perché all'Agnesi eravamo quasi tutte fanciulle, per farci proprio questo monologo. Purtroppo ce l'abbiamo fatta, però anche solo quelle 3 ore insieme, devo dire che mi hanno un po' cambiato. Ma poi lei era allucinante, questa cosa qua che dice è vera. Perché, no, vabbè, ovviamente è vera perché la stai dicendo, però è vera, la sento tanto, perché lei era così, cioè lei arrivava in posto, magari non aveva voglia, la mattina si alzava e diceva: ma che palle, non ho voglia di alzarmi. Lei era, esatto, ultimamente era super svogliata. Sì, io ho accompagnato Dario, ma non faccio niente, ho fatto così. Lei praticamente arrivava e poi sentiva l'energia delle persone, sentiva l'energia soprattutto dei ragazzi, dei giovani. Poi vabbè, lì al liceo sicuramente avrà avuto un'energia di quelle ultra potenti, e se la sarà sentita di parlarvi, perché o lei faceva lezioni o se no era raro che si mette, però una volta che prendeva là, basta, era un treno, certo. Non la fermavi più. Infatti tornava a casa, voglio fare questo, quell'altro, impazziva. Tu dici: ma cazzo, Franca, abbiamo 24 ore, non è che, cioè, un giorno sono 24 ore, non sono 20 milioni, cioè, stai calma. E ci metteva subito a lavorare, però era bello, era proprio così. Ci ha dato tanto, ci ha regalato tanto, ci ha lasciato tanto, quindi grazie per aver letto questo pezzo, sono contenta. Ma grazie a voi, perché in realtà era un po' che ce l'avevo lì e questa era l'occasione perfetta. Certo. Tra l'altro mi hanno colpito dei pezzi specifici di questa parte del monologo, che essendo comunque una donna più grande, cioè vissuta in un'altra epoca rispetto a decisamente a me, era del 29, esatto, però è, ahimè, anche un po' attuale, nel senso che io poi crescendo ho avuto questa percezione dell'educazione sessuale mancante da parte di tante persone. Poi magari è una storia, cioè sicuramente è una storia mia, però che condivido, mi sento di condividere, cioè nessuno mi ha spiegato determinate cose, nessuno parla utilizzando i nomi delle veri, insomma, con cui si dovrebbero chiamare le cose e le parti del nostro corpo, e quindi è tutta una negazione, no? L'educazione, almeno al femminile, forse poi mi sbaglio, mia, nonostante sia cresciuta in un ambiente molto libero e aperto, è stata sempre un po' quella della negazione, cioè non fare così, non sembrare così, non fare perché uguale. Poi sembri un po' allora, però anche meno, questo invece. E quindi stai attenta a lui, stai attenta a quella cosa lì, stai attenta che ti può succedere. E non mi è stato dato in realtà uno spazio sulla mia volontà, sulla mia libertà, che magari proprio quella cosa lì mi faceva godere in quel momento o mi sarebbe piaciuta. E quindi è stata tutta una cosa di sessualità un po' negata. Cioè, invece sarebbe bello che una cultura, un'educazione ti portasse a esprimerti, a conoscerti, a rispettarti, a volerti bene, ad amare il proprio corpo, a usarlo, a viverlo, no? anche sotto questi aspetti sessuali. E certo. Anche la masturbazione femminile è stato un grande tabù, probabilmente, no? Mentre i miei compagnetti delle medie parlavano a loro modo di masturbazione, noi eravamo imbarazzate, forse. Poi, comunque, poi non lo so, cioè è una mia percezione, chiaramente non è così per tutte e tutti, però forse parlare di sesso, chiamandolo sesso, chiamando la vagina, la vulva, così, e dicendo alle ragazze conosciti, esplorati, amati, vivi il tuo corpo, invece che non fare questo, non fare quest'altro, stai attenta, renderebbe la sessualità e le persone molto più libere. Ma io confido nelle nuove generazioni, perché comunque per esempio nella mia si ritrova, almeno io personalmente mi ritrovo molto nelle parole di Frank, che avevamo 70 anni di differenza. Mm-hmm. Cioè, è allucinante questa cosa, eh? Cioè, io sono degli anni 90, ma non è che è cambiato tanto anche il non esprimermi, cioè l'aver capito tutto dopo, con le amiche, insomma, con l'esperienza, ma nessuno mi ha istruita, nessuno mi ha educata a stare bene io in primis, conoscermi io, cioè addirittura è arrivato prima il sesso del conoscermi io, cioè è allucinante questa cosa. Certo. Qua, se ci si pensa, no? Certo. Quindi io confido molto io credo che questa cosa, l'educazione sessuale, debba essere, è importantissimo che venga insegnata da piccoli. Mm-hmm. Come la sorellanza, ma sono delle cose tipo dei dogmi, non so come dire. Vivremo sicuramente periodi, la gente soffrirebbe molto meno, starebbe meno male, questo sicuramente, e ognuno avrebbe una coscienza di se stesso molto più ampia. Esatto. Davvero si starebbe molto meglio, ma cioè sembra una frase fatta, ma cioè stare bene è quasi impossibile, cioè mm-hmm. è incredibile da questo punto di vista. Certo. Quello sessuale, dico. Sì, poi invece di guardare che cosa fa piacere all'altra persona, prima bisogna guardare se stesse, esatto, no? Sì. Cioè che cosa fa piacere sì, a me, come lo comunico all'altra persona. Invece esatto, a volte perché poi quello è anche contrario. Il passaggio. Mm-hmm. Quello è anche il passaggio, no? Cioè capire cosa ti piace, lo dici all'altra persona, c'è cioè una comunicazione e... questo è fondamentale, cazzo, cioè capire che cosa piace, capire che cosa non piace, cosa piace. È proprio uno studio, è bello. Esatto. Tra l'altro non siamo, è necessario. Non siamo neanche solo noi come esseri umani a farci dell'autoerotismo, cioè una delle cose più trasversali alle specie, agli esseri animali. Sì. Mi ricordo per esempio che anche le scimmie bonobo si masturbano sia da sole, da soli, sia anche se lo fanno, cioè si masturbano reciprocamente, e tipo, se mi ricordo bene, lo fanno anche per gestire anche un po' i conflitti interni al gruppo. Per alleggerirsi. Esatto, ed è bellissimo. Ci tenevo a dirlo perché molto... è una cosa eccezionale, no, secondo me. Infatti sì, questa cosa sarebbe piaciuta moltissimo ad Ale, sicuramente la sapeva, ma non l'ha mai inserita in nessuno dei suoi libri, peccato. Se no ne avrebbe fatto, se avessi dato là questa cosa avrebbe scritto un libro sulla masturbazione animale, probabilmente. Parlo di Dario Font, scusate che ho preso là. Fantastico. Comunque sì, davvero, complimenti sia a Franca che a te che hai letto questa... Per l'interpretazione. Esatto, no, è stato davvero molto, molto bello e anche divertente, specialmente divertente. Esatto. Bene, bene, sono contenta. Grazie, Gia, sei stata bravissima, davvero. Grazie, ti lasciamo grazie alle tue facce. Esatto. E vostre, e di tutti. Niente, sono una mera esecutrice, anzi neanche un'esecutrice, una mera portatrice di musica degli altri. Beh, lo fai bene, lo fai decisamente bene. Beh, questo sì, questo potrebbe anche essere, dai. Grazie mille per il tuo contributo. Sì, grazie Baci, Gemma. un abbraccio. Baci, baci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok, allora direi che abbiamo riso molto, io ho Sì, riso sì, molto. sì. La E... capacità di far ridere e far pensare insieme, secondo me, è proprio Top. top, sì, qualcosa di eccezionale. Sì. Ci arriva anche un messaggio da un ascoltatore, Ascolta come si tu, dice? ascolta E tu. ci dicono, Gè, sei stupenda. Con un cuore. Wow, hai un fan. Che bello. Questo e altro a Radio ZM, sono le 19:36. Ricordiamo che esiste il canale Telegram, sul quale potete anche scriverci, non solo ricevere le comunicazioni. Farci Marti, domande, boh, scriverci impressioni, e stimoli. come si fa, Marti? Allora, dovete andare su no, su Telegram. Io niente di queste cose. Vabbè, dovete andare su Telegram, cercare la chiocciolina con scritto in minuscolo Radio ZAM tutto attaccato, Underscore. sì, cioè barretta piccolina sotto, Bassa. bassa, E chat. su questo potrete scriverci e quindi se avete suggerimenti, stimoli, Ma anche storie pensieri. divertenti, vogliamo sottolineare che è tutto anonimo. Noi non leggeremo assolutamente il nome della persona che ci scrive i messaggi e sospendiamo anche un attimo il giudizio, perché se sono cose, storie di sexting private, di autoerotismo, chiaramente le tratteremo come tali con il dovuto rispetto, quindi in caso non fatevi problemi. Esatto, se no potete anche scrivere semplicemente per comunicare con noi, quindi se ci sono cose che non volete che riportiamo in radio, noi assolutamente rispetteremo questa cosa, quindi assolutamente sentitevi liberi e libere di scriverci qualsiasi cosa. Allora, attacchiamo con la prossima traccia. Sì? Ah, aspetta Marti, prima di questo abbiamo ricordato Telegram, dobbiamo ricordare anche Facebook, anche lì potete scriverci. E stessa cosa, quindi se volete portare il vostro contributo, noi lo condivideremo in maniera assolutamente anonima. E niente, quindi adesso divertitevi, Aspetta, scusa, divertiamoci. c'è un altro messaggino in cui ci fanno i complimenti. E, tra l'altro, mi ha letto nel pensiero, abbraccio e saluto fortissimo Questa persona. questa persona, posso dirlo, Guido e Giulia che ci ascoltano. E grazie, sono contenta. Quindi, come vedete, leggiamo i vostri messaggi e fatelo. Mi raccomando, fatelo, così arricchiamo la puntata. Quindi, Balliamo un po' insieme. esatto, prima di andare avanti. Ci ascoltiamo Kelis con Trick Me. Freedom to us. check me twice. Well, I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Bene, allora direi che questa è stata una canzone bomba, anzi bombissima, quindi non smetterò mai di dirlo, grazie Lady J, grazie ancora per il tuo contributo, è stato davvero prezioso. E prima di andare avanti vogliamo ascoltare un'altra canzone insieme a voi, adesso la preparo, si chiama Ring My Bell di Anita Ward. Thank you. Marti, ma tu lo sapevi che i vibratori esistono già da almeno fine 800? Wow, no, non c'ero. Neanche io c'ero, ma ho letto un libro interessantissimo che l'ho dovuto studiare per l'università. E in questo libro praticamente spiegava, tra le miriadi di altre cose bellissime che un giorno racconterò qui in radio, raccontava che si pensava che l'orgasmo fosse essenziale per il concepimento. Quindi, in una società in cui la riproduzione, cioè il sesso, era visto solo nell'ottica di riproduzione, era necessario quindi che una donna venisse perché potesse concepire. Quindi era una cosa, la masturbazione, in particolar modo l'utilizzo dei vibratori, era essenziale per questa cosa. E quindi si è costruita tutta un'industria che appunto girava attorno al vibratore ed era anche consentito dalla Chiesa proprio per questo motivo. Quindi le donne andavano dal medico e il medico le faceva venire con questo vibratore. Io perché invece... è anche appunto anche una cosa legata sicuramente anche alla salute, e per in realtà curare l'isteria, si pensava così. E comunque sì, con il beneplacito della Chiesa gli uomini dovevano far venire le donne. Ci sono anche dei testi del Medioevo, all'inizio del Medioevo in realtà, perché poi il Medioevo non è tutto uguale, non è tutto oscuro come ci insegnano, ma all'inizio in realtà ci sono degli scritti, questo l'ho visto in un documentario storico, in cui dicevano esattamente la stessa cosa, cioè la donna poteva da i 14 anni in poi masturbarsi. Chiaramente lo dicevano in altri modi, anche se gli scritti della letteratura dell'inizio del Medioevo sono molto espliciti, molto più espliciti di quello che pensiamo, di come scriviamo e parliamo adesso. E quindi dai 14 anni in su, quindi durante, cioè all'inizio della pubertà, quando ci si sviluppa, diciamo, la donna, le ragazze avevano bisogno di masturbarsi per stare bene, per stare meglio. E questa cosa l'ho trovata pazzesca, perché poi a un certo punto, con la mano, l'ombra oscura probabilmente della Chiesa, anche una certa libertà sessuale e anche una certa libertà del corpo, dell'espressione dei corpi, è venuta meno. No, certo. Ed è arrivata fino a noi. Anche perché sicuramente nel momento in cui, in riferimento a quello che ho detto prima, si è scoperto che l'orgasmo non è essenziale per il concepimento, allora infatti anche lì la Chiesa ha detto: ah no, allora le donne non possono più godere. Vuoi divertirti? No, sì, sicuramente comunque erano anche tempi bui da questo punto di vista, perché comunque ricordiamo che per esempio l'isteria portava anche, cioè veniva vista in un determinato modo, qualsiasi persona, qualsiasi donna poteva essere malata di isteria, una cosa assurda, e quindi veniva anche di conseguenza, dopo essere stata categorizzata come tale, come malata, veniva anche trattata come tale, quindi... Sicuramente è un altro argomento di approfondimento anche in futuro. Certo, certo. Masturbazione nella storia. La masturbazione nella storia. Fantastico. Fantastico. Se avete degli stimoli anche di questo tipo, scriveteci. Se avete anche delle fonti, se abbiamo detto delle cazzate, potete scrivere quello che volete. Ci smentiremo anche live. Non abbiamo nessun problema. Allora, adesso potremmo anche andare avanti con la scaletta, direi. Sì. E cosa abbiamo adesso in programma? Dunque, noi abbiamo invitato a partecipare a questo programma Slavina, che purtroppo non può essere qui oggi, al telefono, ma ci ha regalato degli audio che vi faremo sentire. Per chi non sapesse chi è Slavina, leggo. Slavina è una porno attivista impegnata fin dalla fine del secolo scorso nell'ambito delle lotte sociali, dell'autoproduzione e della tecnologia di AI. Ha scoperto nel 2005 a Barcellona la scena del post della post-pornografia, iniziando a concepire un'idea più sexy della rivoluzione. Le politiche del corpo in forma di nuova pornografia, gender hacking, amore queer e sessualità radicale sono diventate il suo campo d'azione e il tema principale delle sue performance, dei suoi esperimenti narrativi multimediali. Nel 2012 ha pubblicato il libro Racconti per ragazze sole o male accompagnate e dei laboratori che la portano in giro per tutta l'Europa. Quindi, non so, cercate Slavina, fa dei laboratori molto interessanti, è una pornoattivista davvero molto attiva, nel senso che gira davvero l'Europa. Noi abbiamo avuto l'occasione di incontrarla qualche volta qui a Milano e ascoltiamo insieme i suoi audio. Buonasera a tutti e tutte. Sono molto contenta di aver ricevuto questo invito a questo ragionamento collettivo sulla sessualità e soprattutto la sessualità con se stesse in tempo di confinamento, perché credo che sia un tema. Stavo già dicendo un problema, e no, non è un problema, è un tema molto interessante, perché secondo me ha tanto a che fare con il nostro benessere psichico, no? Perché il benessere sessuale ha tanto a che fare con la nostra possibilità di essere persone felici nel mondo. Diciamo che in questo momento ci hanno imposto di essere piuttosto felici ognuna a casa sua, e proprio diciamo da questa condizione, no, di isolamento partiamo, e io cercherò di non perdermi, perché in realtà il tema dell'autoerotismo, della masturbazione, quindi del piacere con se stesse, è un tema che per quanto mi riguarda potenzialmente è sconfinato, quindi ho deciso di concentrarmi su tre livelli che sono tutti integrati tra loro e che però tratterò separatamente, così diciamo perché il discorso sia più comprensibile, no? Poi in realtà appunto ogni livello si influenza con l'altro. Il primo livello è quello della logistica, perché molto spesso viviamo in case che sono piccole, dove non, oppure magari se proprio non sono piccole, non hanno diciamo quelle caratteristiche, no, di rispetto della privacy. Molto spesso appunto la nostra intimità è sempre in ballo, e quindi c'è bisogno, come dire, di per farsi una buona sessione di autoerotismo, di trovare uno spazio-tempo che sia safe, che appunto non è scontato, e anche c'è bisogno di rivendicarlo, no? Se è necessario, perché la masturbazione a livello proprio fisiologico giova al sistema immunitario, cioè qualcosa che veramente ci fa profondamente bene, e non è qualcosa che è in alcun modo concorrenziale con per esempio una relazione di coppia, no? Non c'è bisogno di essere gelosi o di andare in crisi se la nostra partner ci dice: guarda, io in realtà avrei bisogno di un po' di tempo con me stessa, perché non si tratta di venire lasciati indietro, ma di un altro tipo di sessualità, no? Quando siamo in contatto con un'altra persona, il nostro corpo reagisce in un certo modo e ha tutta un'attitudine, e quando siamo con noi stessi invece è una questione profondamente diversa. E quindi, insomma, io ritengo molto necessario, no, questo rivendicare la possibilità e proprio la necessità di uno spazio per sé, no? La famosa stanza tutta per sé, almeno per 20 minuti, no? Che poi magari toccandosi da sole o da soli ci vogliono anche meno di 20 minuti, però almeno 20 minuti fuori dal controllo si possono, secondo me, esigere, e sono il tempo giusto per godersela una buona sessione di masturbazione. Che cosa è necessario anche a livello, diciamo, di logistica? Mantenere un'igiene corretta. Sembra scontato e così un po' superfluo dirlo, però in realtà non è né superfluo né scontato, no? Bisogna mantenere almeno l'area dei nostri genitali dove ci sono le mucose e dove magari usiamo dei sex toys, oppure che siano, diciamo, riconosciuti formalmente come sex toys, o altri oggetti che magari utilizziamo, no, per il nostro piacere. E quindi, insomma, quell'area che è un po' più delicata va sempre mantenuta pulita. E, diciamo, il terzo punto, sempre a livello di cioè questioni più o meno logistiche, è cercare poi invece di evitare delle forme di compulsività. Che cosa significa? Significa che se poi arriviamo a masturbarci 5-6 volte al giorno e il nostro unico orizzonte di piacere diventa quello della masturbazione, forse è arrivato il momento di preoccuparci un po', perché appunto c'è ancora un mondo fuori, e quello che poi, insomma, è la dose che fa il veleno, no? Diceva Misa Ippocrate. Quindi quello che può essere una pratica molto salubre e che ci fa bene al corpo e alla psiche, se poi diventa una ripetizione compulsiva, sia ci può fare male proprio a livello di fisiologia, no? Nel senso che arrossamenti o cose, altre problematiche di questo tipo, e poi, insomma, è anche proprio una questione di rimanere intrappolati, no? dentro un loop che invece, insomma, io credo che sia profondamente buono e utile fare sesso con se stessi o con se stesse, però appunto ci stanno anche un sacco di altre cose. Beh, allora, io seguo il consiglio di Slavina e vi lascio qualche minuto per voi stessi e voi stesse, e giusto il tempo di una canzone. Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana. Marti, che canzone abbiamo ascoltato adesso? Una bellissima canzone di Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp. Sperando perché? Vi sia stata d'aiuto. Scherzo. Che simpaticona Martina. Continuiamo con Slavina e ascoltiamoci il suo secondo audio. Andando avanti, l'altro livello, diciamo, che riguarda l'autoerotismo, è quello di un livello della pratica, no? E a questo proposito vorrei ricordarci che la zona erogena più ampia del nostro corpo è l'epidermide, è la nostra pelle. Questo per dire che non esistono soltanto i genitali. È un po' un errore strategico quello di concentrarci soltanto sui genitali, no? Proprio a livello politico, perché delocalizzando la possibilità di provare il piacere, noi la moltiplichiamo proprio per la ragione di cui sopra, perché poi appunto concentrandosi sempre sulle stesse zone erogene c'è un pericolo di così di incastrarcisi sopra in qualche modo. Il capitolo dedicato a le maniere di masturbarsi è potenzialmente amplissimo. Io tra l'altro credevo che anche che fosse una questione legata soltanto alle socializzate donne, no? Che ognuna di noi si masturba in un modo diverso, e invece mi è stato detto che anche in una maniera molto risentita nell'ultimo così confronto un po' intimo che ho avuto con un socializzato maschio, che invece anche gli uomini si masturbano ognuno in una maniera diversa, e quindi insomma anche diciamo gli attrezzi che possiamo utilizzare per dare piacere a noi stessi e a noi stesse sono tantissimi, no? Ormai il capitolo sex toys è potenzialmente infinito, sconfinato. La cosa che mi preme dire è che proprio come con il sesso condiviso, anche il sesso che facciamo con noi stesse, diciamo non tutto va bene per tutte, no? Ognuna di noi ha una fisiologia diversa, ognuna di noi ha avuto una formazione diversa, ha un immaginario anche diverso, e quindi non tutti i sex toys vanno bene per tutte. Per esempio, io farò un esempio di quelli che mi valgono il titolo di anti-influencer del sesso. Per esempio il giocattolino Sona, che è uno dei sex toys più osannati dalle donne di tutto il mondo, che è una roba super potente, che praticamente uno stimolatore clitorideo che però lavora con le vibrazioni, per me è risultato troppo potente, non riuscivo ad usarlo, e non è che sono una che si risparmia in genere. Quindi appunto non date per scontato che qualcosa Satisfyer, ancora non l'ho mai provato, però ho i miei dubbi che possa funzionare con me, nel senso che ognuna di noi deve trovarlo un po' il sex toy che l'aiuta. Le regole generali io ho sempre come riferimento le mie zie sorelle di Betty e Books, e quindi ho sempre un'attenzione per quanto riguarda i materiali, no? Con cui sono fatti i sex toys, e soprattutto bisogna stare attenti a non comprare dei sex toys che risultino, come dire, troppo economici a livello di prezzo, perché molto spesso quello che succede è che appunto si risparmia sulla qualità dei materiali, e a volte sono fatti con delle gomme che contengono ftalati, che sono appunto queste sostanze molto tossiche, cancerogene, mentre invece se utilizzate sex toys che sono di silicone, sono quelli buoni che vanno bene, o materiali non porosi, quindi vetro, ceramica, legno, insomma queste sono un po' le guideline generali. Poi appunto ognuna di noi li deve un po' provare per capire cosa gli piace. Dopodiché, e arriviamo al terzo punto, che è quello che per quanto mi riguarda è più importante, ma anche lì penso che ognuna di noi è diversa. Io non riesco a masturbarmi se non ho uno stimolo a livello di fantasia veramente, veramente forte. E un po' è anche per questo che ho deciso di occuparmi di pornografia, e quindi anche su questo vi dirò un po' la mia, no? Sappiamo che ormai su internet ci stanno un sacco di siti web che promettono porno gratuito, e anzi te lo danno proprio, e sono, insomma, intanto sono antietici, perché sappiamo che sia vanno a rubare materiale di produzioni pornografiche, sia molto spesso mettono online materiali di pornografia girata senza consenso. E quindi già c'è una contraddizione così proprio a livello gestionale. La contraddizione ideologica è quella che però mi sembra più interessante, no? Perché molto spesso dentro questi siti web i materiali che ci sono materiali che sono tutti pesantemente maschilisti, molto legati ad un immaginario appunto di predatori e prede che sono lì che stanno, insomma. E però molto spesso, anche se sono materiali che noi non condividiamo a livello ideologico, ci eccitano lo stesso. Perché succede questo? Questo succede perché il porno è proprio fatto in questo modo. Il nostro immaginario, fin da quando eravamo molto piccole, è stato influenzato da una rappresentazione della sessualità che era di quel tipo, quindi maschilista, quindi patriarcale, con dei ruoli di genere molto definiti e molto, come dire, opprimenti. E però appunto, siccome con quell'immaginario siamo cresciute, è molto difficile liberarsene, no? E quindi una si ritrova ad eccitarsi tantissimo vedendo delle cose che non condivide ideologicamente. Ma questa cosa non deve preoccuparci, non dobbiamo farci venire il senso di colpa. Noi analizziamo e poi, come dire, cerchiamo di nutrirlo anche di altro al nostro immaginario, no? E la pornografia femminista e la post-pornografia sono venute proprio a fare questo. Quindi, con l'angoscia di aver già parlato tantissimo, vi raccomando almeno un paio di case di produzione di porno etico, queer e che è politicamente molto condivisibile, almeno per quanto mi riguarda. Una si chiama Pink and White Production, e questi sono una casa di produzione di San Francisco che produce questa serie che si chiama Crash Pad, e fanno un porno queer veramente molto bello, molto davvero per tutti i gusti, no? Con un ventaglio super ampio, dove si possono trovare dalle cose più appunto di sesso rough, così molto anche violento, alle cose più sperimentali, e soprattutto come dire, include tutte le opzioni di identità di genere possibile. E questa cosa un po' ci aiuta ad immaginarci un mondo che non sia per forza eteronormato. Un'altra casa di produzione che mi piace tanto si chiama Four Chambers, come quattro camere, e loro sono un po' meno sperimentali, però hanno questa cosa che un po' li distingue da tutto quanto il vario marasma così post-pornografico, perché fanno delle cose veramente di altissima qualità visuale, e appunto ognuna di noi delle preferenze, no? Anche a livello di immaginario, e a me le cose così un po' glammettone, un po' curate, con una buona fotografia, mi risultano di più. E, collegandomi a Four Chambers, che diciamo sì, il nome della loro casa di produzione si rifà a un libro di Anaïs Nin. Vi dico pure che molto spesso nella letteratura ci stanno tantissimi spunti che ci servono a far volare l'immaginazione. Molto spesso diciamo nelle cose scritte c'è anche più spazio, no? Per mettere a noi stesse, per immedesimarci, per inventare, che è una cosa secondo me chiave, no? Poi per avere delle session così soddisfacenti di autoerotismo. E quindi io vi raccomando anche di leggere letteratura erotica. Se non avete letto niente, vi raccomando Il Delta di Venere di Anaïs Nin, perché è una di quelle opere che sono un po', diciamo, le basi, no? Della cultura sessuale occidentale. E che altro dire? Davvero mi sembra di aver già parlato troppo. Non sentitevi mai in colpa se cercate il vostro piacere. Se notate che c'è qualcosa che non vi quadra a livello razionale, cercate di informarvi e cercate di capire prima di sentirvi in colpa o insomma lavorare a boicottare voi stesse, no? E la vostra fantasia, perché poi le nostre fantasie sessuali molto spesso ci dicono cose che non hanno neanche a che fare con la nostra sessualità, hanno a che fare con altre necessità, hanno a che fare con altri traumi, altre esperienze che abbiamo vissuto e che magari si infilano, no? Dentro quella dimensione lì. E spero di non avervi annoiato e di avervi dato qualche spunto interessante. Mi raccomando, amatevi tanto. Ciao. Che bello. E rieccoci. Ringraziamo Slavina, nonostante non sia in onda con noi, purtroppo direi, però ci ha regalato davvero, non so, degli ottimi spunti, direi. Sì, degli stimoli. Sì. Secondo me è stata molto, molto chiara e mi sono piaciute proprio le sue parole, cioè la scelta delle parole con cui ha espresso e raccontato e spiegato. E purtroppo appunto non possiamo fare un dibattito, una chiacchiera insieme a lei, però sicuramente a noi piacerebbe tanto che voi ascoltatori e ascoltatrici ci scriveste sul canale Telegram, mm-hmm, anche a fronte di quello che abbiamo ascoltato adesso. Se avete degli stimoli, dei suggerimenti, dei consigli, scriveteci. Anche delle domande che poi possiamo girare a Slavina, volendo. Esatto. E specialmente, secondo me, sarebbe molto divertente, ascolta bene Martina. Ho paura. Se ci scriveste anche, se ne avete voglia, spero di sì, le cose più assurde legate all'autoerotismo, comunque al sexting, come abbiamo parlato inizio puntata, le cose più strane, più strambe, più divertenti che avete fatto, senza magari entrare nel dettaglio, però non so, ho fatto questa cosa, oppure un'altra, oppure ho ricevuto quest'altro. Ovviamente rimarrete nell'anonimato, però sarebbe assolutamente una cosa molto divertente da fare. Sì, sì, perché ha voglia di condividere, chiaramente. La sessualità, il sesso, l'autoerotismo ha qualcosa a che fare con se stesse e se stessi, quindi in una sfera privata, e va benissimo che sia così, è anche bello per qualcuno o qualcuna condividere invece delle narrazioni, delle storie. La cosa che... dimmi. per esempio, mi viene in mente che mi è stato raccontato che una persona, appunto un po' in ottica sexting, questo è il frame, la cornice, ha inviato un video in cui lavava una zucchina. Ma dai! Davvero! Ed è divertente! Quindi sono... funziona! E chi lo è sa? È un modo... Scusami, poi non avendo visto il video, però immaginandomi un attimo come potrebbe essere un video del genere, quello che ci diceva Maya all'inizio del sexting safe, quindi condiviso nel rispetto di se stessi e della persona, con il travisamento, quindi stando attente e attenti a non farsi vedere in faccia, non farsi riconoscere, e utilizzando vari metodi. Tra l'altro abbiamo poi scritto il decalogo del sexting che ci ha portato Maya sulla pagina. Sì, ancora no, ma adesso a breve adesso lo faremo. Lo facciamo. Lavare una zucchina senza filmarsi in viso, ma facendo qualcosa che ha o può avere anche un significato erotico, è un modo di fare sexting sicuramente divertente, sicuro e probabilmente che funziona. E direi che c'è stata molta fantasia. Esatto. E quindi anche si riallaccia molto anche a quello che ha detto Slavina, che per ognuno è diverso, l'erotismo è qualcosa di molto soggettivo, quindi date spazio alla vostra fantasia, mi raccomando, e sperimentate. Esatto, la cosa su cui mi piaceva soffermarmi del discorso di Slavina è proprio la concezione del piacere e del desiderio. Il desiderio è qualcosa di individuale, cioè io posso avere un desiderio, tu puoi averne un altro, può essere condiviso, e quando è condiviso two is more than one, come diceva Morcita, due è meglio, in due è meglio. Comunque, avere dei propri desideri, delle proprie fantasie erotiche che si discostano anche dal porno mainstream, che, come dice Slavina, ha un qualcosa di prettamente legato al piacere maschile e anche maschilista, come diceva lei. Insomma, sforzarsi o comunque elaborare dei desideri, delle fantasie erotiche, personali, che arrivano da una lettura piuttosto che da degli immaginari che abbiamo, secondo me è uno sforzo piacevole, che ci dà del piacere, che possiamo concederci senza assolutamente sentirci in colpa. L'immaginazione è l'immaginazione, quindi può avere a che fare con la nostra realtà, ma può avere a che fare anche solo con l'immaginazione, quindi possiamo esplorare ogni mondo immaginandoci con l'immaginazione, quindi insomma, avere anche delle idee nuove, belle, nuove, per farci piacere. Assolutamente. Slegate un po' dal piacere mainstream, dal porno mainstream, diciamo. Quel martello pneumatico di cui ci parlava Franca Rame, lo lasciamo a casa e ci occupiamo di altro, magari. Bene, Marti, sono le 8:26 minuti. Ascoltiamoci Rino. Direi che appunto ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata, non è finita, no, assolutamente, no, quindi rimanete, non scappate. Ci ascoltiamo una canzone per rilassarci un po' e poi... Tecla. Tecla. Mentre la notte scendeva stellata, stellata, lei affusolata nel buio sognava incantata. E chi mi prende la mano stanotte, mio Dio? Forse un ragazzo, il mio uomo, o forse io? Lontana la quiete, montagne imbiancate di neve, e il vento che soffia, che fischia più forte, più greve. e chi mi sfiora le labbra, chi mi consola. Forse un bambino già grande o io da sola. Passava la notte, passavano in fretta le ore. La camera fredda già si scaldava d'amore. Chi troverà i miei seni avrà in premio il mio cuore. Chi incontrerà i miei seni avrà tutto il mio amore. Discreta spiava e le ombre inventava, mentre sul mare una luna dipinta danzava. Chi coglierà il mio fiore bagnato di brina? Un principe azzurro, forse io adulta, io bambina. Scendeva stellata, stellata, lei affusolata nel buio dormiva incantata. Chi mi dirà buonanotte stanotte, mio Dio? La notte, le stelle, la luna o forse io? Tra l'altro, Marti, mi sono resa conto che abbiamo fatto ascoltare, abbiamo ascoltato gli audio di Slavina proprio nell'ora dove si cena. Direi che... tu hai parlato di zucchine, quindi... e tutto questo mentre si mangia. Vabbè, chi, fortunato chi mangia, visto che noi in questo momento siamo a digiuno perché siamo appunto qui in radio. E va bene, procederei. Dopo questa perla chiamiamo Tecla, che per chi ci ascolta ogni giovedì ormai conosce già. Eccola. Yuhu! Buonasera Tecla. Ciao Tecla. Buonasera, buonasera. Come va? Vi sento forte e chiaro, che meraviglia! Non l'abbiamo detto, ma qui in radio ci sono delle attrezzature nuove. Esatto, ma abbiamo delle cuffie belle. Stratosferiche. Bene, benissimo, infatti si sente pulitissimo, complimenti ragazze per lo speakeraggio, siete fantastiche. Grazie. E come sempre, stiamo poi... diventando... Vai. No, dico, quando poi verrete qui... troverete una radio meravigliosa, la radio cresce e io esorto gli ascoltatori e le ascoltatrici a spammare i nostri canali e anche a darci dei consigli, ad aggiungersi. Certo. Un po'. Okay. Beh, devo dire che la puntata ha toccato delle chicche clamorose, cioè io mi sono eccitata, devo dire, tutto il tempo, quindi diciamolo, liberiamoci. E, beh, abbiamo toccato il sexting, abbiamo toccato l'autoerotismo, siamo arrivati anche a parlare, ho sentito vagamente, l'educazione sessuale, cioè ci siamo, cioè è incredibile come questa puntata abbia toccato veramente la qualsiasi. Bello parlare di sesso. Sono... Esatto, e quindi sono molto contenta. Dunque, allora ragazze, io partirei subito, visto che è anche un po' tardino con l'intervento. E io vi ho portato Eve Ensler, I monologhi della vagina. Meraviglioso. Tra l'altro, sì, sono dei, sono dei pezzi a me cari, perché li ho recitati con i miei compagni dopo il lavoro stasera, che saluto affettuosamente. Anch'io, anche noi, anche qui in radio li salutiamo. Questi, infatti, vorrei ridare voce a questi pezzi che ho letto con le mie compagne, sono molto emozionata di fare questa cosa e volevo comunque fare un piccolo appunto dicendo che i monologhi della vagina sono stati appunto scritti da Evensler, raccolgono le interviste di ben 200 donne che hanno espresso liberamente le loro idee sul sesso, sulle relazioni, a volte anche su violenze in alcuni casi. E vi cito una piccola frasettina della nostra cara Eve, che dice che la vagina viene qui descritta come sessualmente superiore al pene, perché in essa risiede il clitoride, che è considerata la sola parte del corpo umano specificamente ed esclusivamente volta al piacere. Quindi, olè! Così, facciamoci due risate. E parto, ragazze, spero di riuscire a trasmettervi un po' di risate. Certamente. Lì sotto. Non vado lì sotto dal 1953. C'era un ragazzo che, mamma mia, Andy Latkoff. Era bellissimo e alto come me. Mi chiese di uscire insieme. Non mi dimenticherò mai la sua nuova Lear bianca. Andy era un buon partito, ai miei tempi si diceva così. Eravamo nella sua auto e io pensavo alle mie lunghe gambe, alle mie ginocchia schiacciate contro il cruscotto. Ad un certo punto Andy mi ha afferrato e mi ha dato un bacio esagerato come quelli dei film, modello prendimi. Mi sono eccitata. Ero molto eccitata. E c'è stata un'inondazione lì sotto, questo fiume della vita, questa forza della passione che fluiva da me, ha attraversato le mutandine e ha inondato il sedile della nuova Lear. Ma non era pipì e non puzzava. Andy però ha detto che puzzava di latte acido e che gli stavo macchiando il sedile. Ha detto che ero strana e maleodorante. Io ho cercato di spiegargli che il suo bacio mi ha colto di sorpresa, che normalmente non ero così. Ho cercato di ripulire l'inondazione con il mio vestito nuovo, color giallo primula, che è rimasto orribilmente macchiato. E Andy mi ha riportato a casa, non ha detto una parola. Quando sono scesa dall'auto ho preso una decisione irreversibile: chiudere bottega e non riaprirla mai più. Un tempo facevo dei sogni assurdi da drogata. Sognavo Burt Reynolds. Non so perché quell'uomo non aveva mai fatto niente per me, ma io sognavo di essere sempre insieme a lui. Uscivamo a cena in quei ristoranti di Atlantic City, enormi lampadari, migliaia di camerieri con il panciotto, e Burt era lì. Mi regalava un mazzetto di orchidee che io appuntavo sulla camicetta. E ridevamo, io e Burt, non smettevamo mai di ridere. Ridevamo, mangiavamo cocktail di gamberetti squisiti, enormi. E poi Burt si chinava su di me e proprio nel momento in cui Burt mi stava per baciare, il ristorante iniziava a tremare. Uno stormo di piccioni usciva da sotto il tavolo, non so cosa ci facessero lì, e poi da lì sotto arriva l'inondazione. Fluiva libera da me, sgorgava in tutta la sua potenza e trascinava con sé piccole barche, pesciolini, e piano piano allagava tutto il ristorante. Vedevo Burt immerso fino al ventre con un'espressione di disgusto in volto. era molto seccato perché l'avevo fatto di nuovo. E guardava inorridito i suoi compagni, Dan Martin e company, che nuotavano in smoking e abito lungo. E il prossimo pezzo si intitola La mia vagina è arrabbiata. La mia vagina è arrabbiata. Ah, scusate, faccio un piccolo preambolo prima di leggere questo pezzo qua, perché è un dialogo di qua sono sì, un dialogo di quattro donne. E però io sono da sola, quindi cercherò di diventare quattro tecle. Ci proverò. Allora, la mia vagina è arrabbiata. Davvero? È incazzata. La mia vagina è furiosa e ha bisogno di parlare. Ha bisogno di parlare di tutta questa merda, ha bisogno di parlarvi. C'è in giro un esercito di persone che escogitano modi per torturare la mia povera, gentile, amorevole vagina, che passano i giorni a fabbricare psicoprodotti e idee orrende per minare la mia passera. Rompi i coglioni della vagina. Ah, tutta questa merda che cercano senza sosta di spingerci dentro per pulirci, per imbottirci, la faranno scomparire, Dio mio. Bene, la mia vagina non se ne andrà. È incazzata e se ne starà qui. Prendi i tamponi. Che diavolo è sta roba? Un fottuto tampone di cotone asciutto infilato dentro. Perché non trovano un modo per lubrificare leggermente il tampone? Appena la vagina lo vede, ha uno shock e dice, lascia perdere, si chiude. Dovete saperci fare con la vagina, prepararla alle cose. È tutta una faccenda di preliminari d'altronde. Dovete convincere la mia vagina, sedurre la mia vagina, suscitare la fiducia della mia vagina. Non potete riuscirci con un fottuto tampone di cotone asciutto. Smettete di spingere cose dentro di me. Smettete di spingere e smettete di pulire. La mia vagina non ha bisogno di essere pulita. Sa già di buono. Non come i petali di rosa. Non cercate di abbellire la realtà. Non credete loro quando vi dicono che profuma come i petali di rosa. È fatta per odorare come una passera. Ecco cosa stanno facendo, cercando di pulirla, di farla odorare come uno spray da bagno o un giardino. Tutti quegli spray profumati, fiore, bacche, pioggia. Non voglio che la mia passera profumi di bacche o di pioggia. Tutta pulita, come lavare un pesce dopo averlo cucinato. Voglio sentire il sapore del pesce. È per questo che l'ho ordinato, no? Così è la donna, così sono io. I miei umori tutti in collisione e che stanno di pesce. E poi ci sono quegli esami. Ma chi li ha escogitati? Ci deve essere un modo migliore di fare quegli esami. Perché quello spaventoso abito di carta? Ti graffi i capezzoli e quando ti sdrai fruscia e ti fa sentire come un pezzo di carta che qualcuno ha gettato via. Perché i guanti di gomma? Perché la pila puntata lì come se la giovane investigatrice Nancy Drew stesse lavorando contro la gravità? Perché le staffe d'acciaio in stile nazi, le orrende fredde labbra d'anatra che spingono dentro di te? Che cos'è questa faccenda? La mia vagina è arrabbiata per queste visite. Si mette sulla difensiva settimane prima. Si chiude, non si rilassa. Non vi fa innervosire? La prego, rilassi la vagina. Rilassi la vagina. Perché? La mia vagina è intelligente. Sa cosa sta succedendo. Si deve rilassare, così tu puoi infilarle quelle fredde labbra d'anatra dentro. Esame vaginale? Non credo proprio. Sembra più un'esecuzione vaginale. Perché non trovano uno splendido, delizioso velluto rosso e non me lo avvolgono attorno, non mi fanno sdraiare su una soffice coperta di cotone e non si filano attraenti guanti rosa o azzurri e appoggiano i miei piedi su staffe ricoperte di pelliccia? E perché non mi riscaldano le labbra d'anatra? Cioè, lavorano con la mia vagina? No, invece, sempre torture. Fottuti tamponi di cotone asciutto, fredde labbra d'anatra e biancheria intima di cuoio. Non c'è niente di peggio della biancheria di cuoio. Ma chi l'ha inventata? Si muove tutto il tempo, si incastra, davvero una merdata. La vagina è fatta per stare libera e aperta, non per essere tenuta imprigionata. È per questo motivo che le guaine sono una pessima idea. Abbiamo bisogno di muoverci e aprirci, parlare e parlare. Le vagine hanno bisogno di comodità. E fate qualcosa per dar loro piacere. No, naturalmente non lo fanno. Odiano vedere una donna che prova piacere, soprattutto piacere sessuale. Quello che intendo è un grazioso paio di mutande di morbido cotone e magari con un vibratore incorporato. Le donne verrebbero tutto il giorno, verrebbero nei supermercati, metropolitana, felici vagine orgasmiche. Loro non lo sopporterebbero, non tollererebbero di vedere tutte quelle calde vagine felici, energizzate, che non subiscono umiliazioni. Ah, se la mia vagina potesse parlare, parlerebbe di se stessa come faccio io, parlerebbe di altre vagine e farebbe imitazioni delle vagine. La mia vagina ha aiutato a mettere alla luce un bambino enorme. Pensava che avrebbe fatto qualcosa di più, ma non è stato così. Ora vuole viaggiare, non desidera molta compagnia. Vuole leggere, conoscere cose nuove, uscire più spesso. Vuole sesso, le piace il sesso. Vuole andare più in profondità, è affamata di profondità, desidera gentilezza, vuole un cambiamento. Vuole silenzio, libertà, baci gentili, liquidi caldi, contatto profondo. Vuole cioccolato, fiducia, bellezza. Vuole urlare, non vuole più essere arrabbiata. Vuole venire, vuole volere, vuole la mia vagina, è la mia vagina, vuole tutto. Finito. Brava. Madonna. Abbiamo riso tutto il tempo. No, veramente divertente. Sì. Tra l'altro sì, è bello vedere come, nonostante comunque noi questo pezzo l'avessimo anche già visto live, sì, dal vivo, perché appunto ricordiamo che il Dopolavoro Stadera che ha proposto, ci ha proposto questo spettacolo e l'ha portato a ZAM. Ha sentito Lorenzo! Hai in cortile, fai tu. E niente, fa lo stesso effetto. Cioè sentirlo, che bello, sono dal felice, vivo e sentirlo in radio, ed è meraviglioso. Sì, sei stata veramente brava. Ti sei quadruplicata molto bene. Guarda, sono veramente felice, l'ho provato tipo 10 volte prima di farlo stasera. E no, sono contenta anche di aver chiuso con questa chicca, e devo dire che anche gli interventi in generale sono stati posizionati al modo giusto, cioè abbiamo avuto dalla risata alla riflessione, abbiamo tutto, abbiamo fatto tutto, brave brave. Beh, speriamo la pensino così anche i nostri altri ascoltatori. Ma guardate, io posso dirvi che ho compagni che stanno ascoltando, che mi stanno scrivendo, ma a me in privato, e che sono divertiti, cioè che ascolta anche mentre fa consegne a domicilio, cioè ragazzi ormai stiamo spopolando. Però non hanno scritto sul nostro canale Telegram, quindi un piccolo rimprovero si può fare. Ma gliel'ho detto, adesso cercherò di insistere, ecco. Vabbè, comunque bisogna anche dire che appunto è in fase sperimentale, quindi sono perdonati tutti quanti e tutte quante. Comunque ragazze, volevo dire ai nostri ascoltatori che consiglio in questo momento di quarantena di leggere i monologhi della vagina se volete farvi due risate. Lo consiglio a tutti e a tutte, ovviamente. Sì, anche secondo me, brava. Lo consiglierei anche a tutti i reparti di ginecologia del mondo. Sì. Perché io ogni volta che vado a fare una visita penso a questo monologo e dico, caspita, però il velluto rosso ci vorrebbe davvero, sai? Vero? Ma anche lubrificare il tampone, cioè sì. tipo caldo. Renderlo caldo. No, vabbè, comunque è particolare. Ma poi anche il primo che ho letto dove c'è questa signora, che in realtà nell'intervista lei è anziana quando racconta di questa esperienza di inondazione. Mm-hmm. E che poi si parla del... Esatto, e si parla cioè anche di anni 50, anni 60, cioè quindi magari era anche un po' più tabù al tempo. Certo. E quindi lei si vergogna tantissimo, no, di questa inondazione, povera Crista. Sarà capitato, e questo ragazzo che... tante. Esatto, e questo ragazzo che non la capisce per nulla, e questo qua poi... Se volessimo aprire un discorso sull'educazione sessuale potremmo fare un'altra puntata. A voglia. e niente. Ragazze, allora vi saluto. Grazie Tecla. Grazie molte, davvero. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao Tecla. Un abbraccio e fateci ballare. Certo. Ciao, ciao Lady G. Ciao. Addio. Ciao, ciao. Allora, direi che possiamo avviarci alla conclusione vera e propria di questa puntata. Sì, salutiamo tutte le persone che sono intervenute. Aspetta, però prima ascoltiamoci un'ultima canzone. Ringraziamole però. E poi? E poi ringraziamenti, saluti. Baci, abbracci. Esatto. Va bene. Allora, per rimanere in tema, rimaniamo sempre in tema e ascoltiamo Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile nero bollente. In questo nido scaldato bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno. Che puntatone! Sì, sono molto contenta. Anch'io. Allora, siamo giunti al termine della nostra puntata. Abbiamo parlato di tantissime cose e visto che queste tantissime cose sono meravigliose, lo sono state dal primo all'ultimo, c'è anche la possibilità di sentire i podcast di questa puntata. E in particolar modo li potete trovare su Archive, quindi digitate archive.org. Archive. Non lo so. Non lo so come si pronuncia, però è scritto Archive, quindi ch.org. Troverete appunto la sezione per Radio ZM e, oppure Archive. Ci dicono dalla regia. Sì. Ok, sì. Ho sentito un eco. C'è un eco che risuona. È il fantasma di Lorenzo che comunque vive in radio anche quando non c'è. Esatto, lui è onnipresente. Grazie. Sa tutto, meraviglioso, e lo ringrazio. Comunque lì potrete ascoltare i nostri podcast che comunque pubblicheremo anche dalla pagina Facebook della radio, Radio ZM. Ricordiamo anche inoltre che comunque è sempre possibile contattarci su Facebook e su Telegram, c'è il canale sia per ricevere le informazioni che condividiamo e sia invece sempre il canale Telegram per poter scrivere e entrare in comunicazione con noi. Quindi radioz@radioz-am per ricevere le comunicazioni, mentre se volete comunicare con noi, quindi scriverci, potete farlo sempre su Telegram scrivendo @radiozam_chat e quindi potrete appunto scriverci, come ho già detto. Va bene, Martina mi ha distratta. Va bene, e poi c'è anche Instagram, l'ultimo, ci trovate sotto @radiozam_misud, tutto attaccato e tutto minuscolo. Mi raccomando, spammateci, ascoltateci e condividete anche i podcast. Chiudiamo la puntata dicendovi e ricordandovi che immagino che tutti quanti voi sarete un po' persi temporalmente, dato il periodo, ma oggi è il 23 aprile, tra due giorni è il 25 aprile. Eh sì. Purtroppo non si potrà fare un 25 aprile come sempre, ma c'è un'alternativa. C'è una bella alternativa, direi. Alle 3 c'è questa bella proposta di pompare al massimo le casse dai vostri terrazzi, dai vostri balconi, dalle vostre finestre, facendo risuonare Bella Ciao in tutti i vostri quartieri in cui vivete. E c'è una diretta di partigiani in ogni quartiere che potrete seguire dalla loro pagina Facebook o dal canale YouTube. Mi raccomando, è un modo per commemorare comunque il 25 aprile e farlo rivivere nei giorni nostri e insomma connetterci tutti quanti insieme, anche se non potremo festeggiare insieme questa giornata. Assolutamente. Quindi vi salutiamo, ringraziamo ancora. Anche Radio Popolare. Cioè, anche Radio Popolare. Sì. Sì, finiamo questa puntata. Ringraziamo tutte le persone che sono intervenute, da Maya col decalogo sul sexting, Lady J che ha fatto il suo primo intervento, di cui sono molto felice, raccontandoci una parte del monologo di Franca Rame. Tecla, che ci ha deliziato con i monologhi della vagina e gli audio di Slavina. Direi grazie a tutte le persone che sono intervenute e grazie a tutti e tutte voi che ci avete ascoltato. Grazie Martina. Continuate ad ascoltare Radio ZM perché continua, eh? Ci sono programmi e programmi interessanti tutta la settimana. Adesso metteremo in coda le ultime canzoni che ci ha proposto la nostra meravigliosa e grandissima Lady J e ci salutiamo qui. L'origine dei nei, i vizi che tu hai, le tue vertigini.